L'obiettivo di questo evento è riprendere, ricucire le fila di una riflessione sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che ha sempre caratterizzato il Festival della Partecipazione. E già nella fase ascendente del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cioè quando il piano è stato concepito e messo in piedi, il Festival della Partecipazione se ne è occupato proprio nel tentativo di definire un ruolo preciso per i cittadini, per la cittadinanza organizzata, per le associazioni civiche rispetto al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E questo piano infatti è stato un po' concepito senza la partecipazione dei cittadini, un po' calato dall'alto, diciamo così, e noi abbiamo invece sempre chiesto, ma soprattutto abbiamo costruito autonomamente degli spazi per fare in modo che diventasse più partecipato, più vissuto dai cittadini, più a misura dei cittadini. E anche questo evento che si terrà nell'ambito del Festival della Partecipazione di quest'anno mira a soffermarsi su questa domanda: quale ruolo per la società civile? Ovviamente ora parliamo di un piano che si sta già implementando, quindi non un piano in via di concepimento, diciamo così, ma un piano che sta man mano atterrando nella realtà, pur con tanti ritardi, con tante battute d'arresto, anche con tante modifiche rispetto al disegno originario, con l'emersione di tante criticità. Ed è per questo che crediamo che il ruolo della società civile nel suo monitoraggio sistematico e nella valutazione dei suoi effetti debba continuare a rimanere vigile e costante. Ecco, a proposito di trasparenza e partecipazioni, che sono delle parole che insomma hai usato anche tu adesso, che dati emergono? Noi abbiamo sempre come osservatorio civico sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che poi ricordo è l'insieme di tantissimi soggetti civici che hanno scelto di lavorare insieme, quindi di autocostituirsi come osservatorio civico. Abbiamo sempre puntato su queste due dimensioni, la dimensione della trasparenza e la dimensione della partecipazione, notando moltissimi limiti sia nell'una che nell'altra delle dimensioni. La trasparenza perché i dati sono spesso difficilmente raggiungibili, in parte abbiamo dovuto costruirli, ricavarli come organizzazione di cittadini, farli emergere, far parlare un po' banche dati che altrimenti non sarebbero state raggiungibili da parte dei cittadini. E sull'aspetto della partecipazione abbiamo avuto un'apertura iniziale e poi delle battute d'arresto. Il tavolo della partecipazione che inizialmente includeva l'Osservatorio Civico sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ora purtroppo ha subito anch'esso una battuta d'arresto, per cui trasparenza e partecipazione sono sempre stati al centro delle nostre richieste e anche della nostra azione, perché laddove non c'erano dati, per esempio, abbiamo provato sussidiariamente a costruirli, laddove non c'era coinvolgimento delle comunità abbiamo provato ad organizzarle, laddove non c'era formazione abbiamo provato a dare il nostro contributo per rendere le comunità, le cittadine e i cittadini più capaci di seguire e monitorare l'andamento di questo piano. Ecco, una parte di fondi è legata anche alla transizione ecologica, poi effettivamente è avvenuta questa cosa, parlerete anche di questo? Certo, una parte fondamentale dei fondi è legata alla transizione ecologica, così come legata alla transizione digitale, così come legata a importanti riforme di infrastrutturazione sociale del nostro paese, per esempio quella che riguarda gli anziani non autosufficienti oppure quella che riguarda l'assistenza sanitaria di territorio. Sappiamo che molti di questi fondi stanno subendo dei rallentamenti, dei ritardi, sicuramente anche per l'impatto della situazione contingente, per esempio sappiamo tutti quanto l'aumento dei costi dell'energia abbia influito anche su alcuni aspetti di implementazione del piano, ma anche perché forse non si è fatto fatto sufficiente affidamento sulla possibilità di coprogettare una serie di interventi insieme alle comunità, ed è per questo che alcuni interventi purtroppo hanno subito dei ritardi o addirittura delle battute d'arresto, perché ovviamente le misure che erano necessarie perché fossero implementate con efficacia non sono state previste per tempo né coprogettate con le comunità. E faccio soltanto l'esempio degli asili nido, la risposta dei comuni alla costruzione degli asili nido è stata molto più tiepida di quanto l'urgenza del problema richiederebbe, proprio perché mancavano una serie di prerequisiti e mancava un'operazione di coinvolgimento, di ascolto delle comunità che avrebbe reso quella misura parte di un percorso più strategico. È chiaro, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza va a finanziare degli investimenti, ma questi investimenti hanno un senso se sono concepiti in un'ottica strategica per le cittadine, i cittadini, per le comunità, e questo richiede necessariamente la loro partecipazione e il loro coinvolgimento.